TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Era noto nel mondo dei compro-oro Nicola Granieri, il 73enne, ucciso giovedì a Trieste. Un'attività la sua svolta completamente in nero, un giro d'affari notevole a giudicare dai monili rinvenuti in casa e anche nel suo motorino, parcheggiato dinanzi alla palazzina Ater in cui abitava. Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale, altre 9 persone denunciate per violazione di domicilio, furto aggravato, lesioni personali e porto di coltello. È una parte del bilancio del capitolo udinese di un'operazione lanciata dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale. Inseguimenti, allarmi per furti in abitazioni, richieste di aiuto di anziani truffati. Cronaca di una serata a bordo di una gazzella del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Udine. Durante le festività le emergenze aumentano e i servizi di pattugliamento sono stati intensificati. Un surplus di sangue e di plasma che in provincia di Udine è l'orgoglio dell'attività dell'Associazione Friulana Donatori. Sono oltre 25.000 e le loro attività sul territorio e nelle scuole stanno consentendo anche un notevole ricambio generazionale. Ad Aquileia riemerge un eccezionale mosaico romano dimenticato per oltre 60 anni. Rappresenta un campo fiorito, risale al secondo secolo d.C. e fu scoperto per la prima volta nel 1963 in occasione della costruzione della caserma dei Carabinieri. Oggi che l'edificio cambia destinazione, il tappeto fiorito è stato riscoperto e sarà reso visibile. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Larazzani e Antonio Cagliazza. È in corso a Trieste l'autopsia sul cadavere del 73enne Nicola Granieri, ucciso giovedì nella sua abitazione nel rione di San Luigi. Era noto nel mondo dei compraoro, ma la sua era un'attività svolta completamente in nero. È iniziata in tarda mattinata all'obitorio civico di via Costalunga, Trieste, l'autopsia sul corpo di Nicola Granieri. Ad eseguirla Raffaella Vetrini, medico dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Trieste. L'analisi sul cadavere potrebbe durare alcune ore. Da capire cosa abbia provocato quella grossa ferita alla testa riscontrata sul corpo del 73enne triestino, trovato riverso a terra in un lago di sangue nel soggiorno dell'appartamento al civico 16 di via Maglic a San Luigi, giovedì pomeriggio. Le analisi invece sulle numerose macchie di sangue che proprio dal suo appartamento risalgono lungo le scale del condominio Ater sono invece in carico alla Polizia Scientifica di Trieste e Padova, che ieri sera hanno concluso i rilievi all'interno dell'abitazione. Bocche cucite dagli inquirenti che indagano anche sul passato dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine per diverse vicende giudiziarie, e che da anni viveva comprando e vendendo gioielli. In casa sarebbero stati trovati diversi orologi di lusso, gioielli e contanti per un valore complessivo di 1 milione di euro. L'Ater, da noi contattata, non vuole fare alcuna dichiarazione sulla vicenda e non fornisce informazioni sugli anni di residenza dell'uomo nelle case popolari a canone agevolato. I vicini di casa sono scossi. Lo vedevamo solo salire e scendere dal suo motorino, qui lungo la strada, qualche parola di circostanza, ma niente di più, dice un'anziana signora che invece vive in questo stabile da moltissimi anni, da quando sono nata, racconta. E proprio quello scooter che Nicola Granieri parcheggiava lungo la via è scomparso. Sembra che l'uomo nascondesse sotto il sedile gioielli e contanti. Il mezzo gli serviva per la sua attività abusiva e ambulante di compro-oro, che eseguiva soprattutto tra Piazza Goldoni e Largo Barriera. Girando in alcuni negozi compro-oro della zona, troviamo dentro dipendenti giovani e gentili che non conoscevano l'uomo. A microfono spento, però, una fonte, un uomo più anziano, ci dice: io personalmente non lo conoscevo, ma altri miei colleghi sì, faceva attività di usuraio in strada. Purtroppo molte persone sono in difficoltà economica in città e hanno bisogno, si rivolgevano a lui. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ha portato al sequestro di 35 kg di cocaina, 1370 di cannabis, 1 chilo di eroina e di 41 armi da fuoco l'operazione lanciata su tutto il territorio nazionale dalla Polizia di Stato. Fra le questure impegnate anche quella di Udine. Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e altre 9 persone deferite all'autorità giudiziaria per violazione di domicilio, furto aggravato, lesioni personali e porto ingiustificato di un coltello. 8 cannabis shop controllati dalla squadra mobile che in 7 casi ha deferito all'autorità giudiziaria i titolari degli esercizi per le violazioni alla nuova normativa, sequestrando complessivamente 3 kg e 106 grammi di cannabinoidi. Questo è il bilancio di una serie di controlli effettuati nella provincia di Udine nell'ambito di una più vasta operazione portata a termine dalla Polizia di Stato in diverse province del territorio italiano contro la criminalità diffusa. L'operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, era finalizzata in particolare al contrasto dello spaccio di stupefacenti, anche nei cosiddetti cannabis shop. In questa attività sono stati infatti effettuati controlli mirati per verificare l'applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con la legge 80/2025, che riguarda anche la vendita di prodotti a base di canapa. Complessivamente l'operazione ha condotto all'arresto di 384 persone, mentre altre 655 sono indagate in stato di libertà. Contestati reati contro la persona e il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi. Sequestrati in tutto 35 kg di cocaina, quasi 1.400 di cannabinoidi e uno di eroina. Sono stati anche individuati alcuni profili social apparentemente riconducibili ai fenomeni criminali in questione, sui quali sono in corso verifiche. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel periodo delle festività aumentano truffe agli anziani, rapine e furti in abitazioni, avvertono i carabinieri. Proprio per questo hanno potenziato i controlli sul territorio, giorno e notte. Ieri sera una nostra truppa è salita a bordo di una pattuglia del nucleo operativo radiomobile di Udine. Tra inseguimenti e controlli negli esercizi commerciali abbiamo documentato un tentativo di intrusione in casa, sventato proprio dai militari dell'arma. Saliamo su una gazzella del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Udine per un servizio straordinario di controllo del territorio. Poche ore prima, grazie a un pedinamento del personale in borghese, la sezione operativa ha arrestato l'autore di una truffa ai danni di un anziano. La giornata era iniziata con un inseguimento alle prime luci dell'alba ad un'automobile rubata. A breve distanza di tempo, sospesa la licenza di un esercizio commerciale in zona stazione. Dentro non c'era il titolare, ma una persona con permesso di soggiorno scaduto e senza contratto di lavoro. L'attività della radiomobile è H24. Seguiamo i militari dell'arma in un controllo ad esercizi commerciali. Capire chi li frequenta aiuta ad avere sempre il polso del territorio. Se in un giorno normale sono fuori di pattuglia tra città e prima fascia provinciale 16 gazzelle e 32 militari, da ottobre l'intensificazione dei controlli disposta per le festività porta in strada fino a 25 veicoli e 50 militari al giorno. Jacopo Mattone, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Udine. L'obiettivo primario è far sentire la gente più al sicuro. Indubbiamente è un periodo dell'anno in cui furti e truffe alle fasce deboli della popolazione aumentano. Aumentiamo sensibilmente il numero di carabinieri per strada per prevenire, ma anche per contrastare quando dovesse arrivare un intervento, avere più auto pronte per poter arrivare prima sul posto. Solamente negli ultimi 3 mesi i carabinieri di Udine hanno denunciato 2 persone, ne hanno arrestate 4 per tentati furti in abitazione. Altrettante manette sono scattate per truffe. Mentre siamo in auto arriva la chiamata della centrale operativa, segnalato un tentativo di intrusione in una villa della zona collinare alle porte di Udine. Luca Frugarello, comandante del nucleo operativo radiomobile. Abbiamo subito notato dei segni di effrazione sulle finestre, una finestra completamente distrutta. L'intervento immediato delle nostre pattuglie ha fatto sì che si dessero immediatamente alla fuga. Sono stati asportati soltanto alcuni monili che erano presenti sul tavolo della cucina. E successivamente verrà fatta un'attività tecnica volta alla ricerca di tracce o elementi utili per proseguire delle indagini. Udine, Lillo Montaltomone. TGR Friuli Venezia Giulia. I carabinieri del reparto operativo di Udine hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo straniero incensurato ritenuto responsabile di una truffa a un anziano con l'ormai consueto metodo del grave incidente stradale. I militari dell'arma, insospettiti dalla presenza a Cividale del Friuli di una berlina con targa straniera, hanno iniziato a seguirla. Dopo alcune ore l'auto ha raggiunto un piccolo paese del Bellunese e qui il giovane ha ricevuto da un uomo di 89 anni un sacchetto di plastica che l'anziano aveva lanciato dalla finestra. Gli uomini dell'arma hanno immediatamente bloccato il ragazzo e all'interno del sacchetto hanno rinvenuto 21.000 euro. La perquisizione dell'auto ha permesso di recuperare altri 1.200 euro in contanti, alcuni monili in oro e 5 smartphone. L'89enne ha spiegato di aver consegnato la somma al giovane in quanto poco prima aveva ricevuto la telefonata di una donna che, spacciandosi per la figlia, diceva di essere rimasta coinvolta in un incidente nel quale aveva ucciso una persona e chiedeva di consegnare a un poliziotto in borghese tutto il denaro che aveva in casa. A Pordenone, in questura, in mattinata, la conferenza stampa di bilancio di un anno di attività della Polizia di Stato da parte del questore Giuseppe Solimene, che lascia il capoluogo della destra Tagliamento dopo 23 mesi di attività per andare in pensione. Arresti e denunce in aumento rispetto al 2024 per la questura di Pordenone. Un'attività non solo repressiva, ma soprattutto preventiva, con oltre 1200 ordinanze per servizi di ordine pubblico e antidegrado, e particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria, al Parco Querini e tutto il centro città. In calo invece gli ammonimenti, dopo che negli ultimi anni i dati erano stati piuttosto fluttuanti, una diminuzione alla quale ha contribuito la realizzazione un anno fa di una sala d'ascolto protetta per le donne destinatarie di violenza. Entrando nel dettaglio, sono state 73 le persone arrestate in provincia di Pordenone, 338 le denunce e un minore arrestato. Ancora fresco il ricordo dell'ultima operazione di qualche giorno fa con le manette ai polsi per quattro Maranza, una misura per dare una sorta di calmata sul fronte della delinquenza tra bande di giovani provenienti anche dalla provincia di Udine. Giuseppe Solimene, questore di Pordenone. Quella relativa a queste risse, chiamiamole così, tra giovani, un problema sul quale ci stiamo lavorando, dove c'è una cabina di regia presieduta dal prefetto e stiamo lavorando unitamente alle altre forze di polizia. Sul consumo di sostanze stupefacenti la Polizia di Stato è riuscita a contenere il fenomeno collaborando con la locale Procura della Repubblica con alcune indagini che sono ancora in corso. Nel 2025 sono stati sequestrati oltre 500 grammi di cocaina, 7 di eroina e più di 6.000 grammi di cannabinoidi. Particolarmente intensa l'azione per la sicurezza cibernetica con 800 siti monitorati, 3 arresti e 49 persone denunciate in stato di libertà. Preziosa l'attività che stanno facendo non tanto dal punto di vista e solo dal punto di vista della repressione quanto anche della sensibilizzazione nei confronti dei giovani studenti di tutti gli ordini, di tutte le scuole, proprio per sensibilizzare loro ai rischi del web e alle tentazioni di quest'ultimo. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. E la Lega stamattina è scesa in piazza a Monfalcone a 2 anni dalla manifestazione che contestò l'allora sindaca Anna Maria Cisint per la decisione di chiudere 2 luoghi di culto islamici. A 2 anni dalla marcia degli 8.000 contro le sue decisioni sulla chiusura delle moschee, quando la sindaca di Monfalcone, confermata poi dal Consiglio di Stato, l'europarlamentare leghista Anna Maria Cisint è in piazza della sua città davanti a un centinaio di simpatizzanti, alla presenza del viceministro dell'ambiente Vania Gava, al vice segretario regionale parlamentare Graziano Pizzementi e ovviamente al nuovo primo cittadino Fasan. Cisint ha sostenuto che da quella data si trova sotto scorta e privata della sua libertà per aver difeso la tutela della legalità. Il significato di questa manifestazione e sottolineare a tutti gli altri comuni che Monfalcone è un esempio virtuoso di rispetto per il Natale contro l'ideologia woke che lo violenta, basta sottomissione, ha detto Cisint, difendendo tuttavia la libertà di culto a patto che ci sia una firma di accordo di responsabilità, un patto sul rispetto delle leggi della Costituzione prima di attaccare la sinistra. Assente l'amministrazione regionale era invece collegato da remoto il leader del partito Matteo Salvini, che ha ricordato la situazione Fincantieri: le grandi aziende devono venire in contro alle esigenze del territorio, ha detto prima degli auguri di rito. Monfalcone, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Situazione meteorologica, cielo da sereno a variabile sulla regione, ecco le temperature alle 11, a Trieste 11,5 gradi, a Udine 11 gradi, a Pordenone 10,5, a Gorizia 10 gradi, Forni di Sopra 8,5 gradi, Piancavallo 7,5, Tolmezzo 0,5 gradi, Tarvisio 1 grado, Sappada -1, Monte Zoncolan 4 gradi, grado 10 e Lignano 9,5. Vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Oggi pomeriggio è in serata prevalenza di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Domani cielo in genere poco nuvoloso con bora moderata sulla costa. Possibile qualche maggiore annuvolamento locale. 25.000 i donatori di sangue attivi, 23.000 sacche di sangue, 10.500 quelle di plasma raccolte in un anno. A Udine l'Associazione Friulana dei Donatori di Sangue ha fatto il bilancio del 2025 che si avvia a concludersi. Surplus di sangue e plasma in provincia di Udine grazie alle attività dei donatori dell'associazione friulana Donatori Sangue. Nel 2025 sono state raccolte 23.015 sacche di sangue intero e 10.536 unità di plasma, con un avanzo rispettivamente di 1.231 sacche e 491 unità rispetto agli obiettivi indicati dal Centro Regionale Sangue. Oltre 25.000 i donatori attivi, sostenuti da un'intensa attività sul territorio e dalle autoemoteche che nel corso dell'anno hanno effettuato 351 uscite. Nel 2025 la FDS della provincia di Udine ha promosso il dono con la maratona del dono di 24 ore, progetti nelle scuole, iniziative sportive e il motoraduno in moto per il dono. Lo sguardo è ora rivolto al 2026 con iniziative legate al 50° anniversario del terremoto del Friuli e al ruolo storico dei donatori nelle emergenze. Manuela Nardon, presidente di AFDS. I risultati che abbiamo raggiunto poi sono quelli che ci dicono veramente missione compiuta, perché, come dico sempre, raccogliere quello che serve, quando serve e quanto serve è una cosa importantissima. E abbiamo le istituzioni tutte, dalla prima all'ultima, passando anche per il comune comunque di Udine, che sono tutte al nostro fianco, e devo dire che sono tutti, veramente tutti, che quando serve aiuto ce lo danno, per cui non mi sono sentita mai da sola, ho sempre avuto chi ha supportato tutto e soprattutto continuo a ringraziare tutti i presidenti di tutte le nostre 193 sezioni che sono la nostra base. Udine, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una riscoperta di eccezionale importanza è avvenuta in questi giorni ad Aquileia, a due passi dal foro. Nel giardino dell'ex caserma dei carabinieri in via Leicht, recentemente acquisita dalla Fondazione Aquileia, è riapparso il mosaico del tappeto fiorito, una delle espressioni più raffinate dell'arte musiva di Aquileia. Nel corso dei lavori preliminari per la ristrutturazione dell'edificio, che diventerà un campus foresteria con 24 posti letto destinati a studenti, docenti e studiosi impegnati negli scavi e nelle ricerche del sito di Aquileia. Parallelamente al progetto di recupero dell'ex caserma, i cui lavori inizieranno a breve, la Fondazione sta quindi predisponendo anche il progetto di copertura del mosaico in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica per il Friuli Venezia Giulia. Il mosaico, risalente al II secolo d.C., misura ben 76 metri quadrati ed è caratterizzato da un riquadro centrale con una pregevole e originalissima composizione di fiori con tessere di molteplici colori. Fu scoperto tra il 1962 e il 1963 in occasione della costruzione della caserma dei carabinieri. Dopo le indagini il pavimento fu ricoperto per preservarlo da possibili danni. La riscoperta di questi ultimi giorni ha mostrato come in effetti si sia perfettamente conservato. Diffondere una cultura della sicurezza che sia concreta, accessibile e capace di generare consapevolezza. Con questo obiettivo l'associazione sportiva udinese ASU ha lanciato il progetto Sicurezza e Autodifesa, inserito nell'ambito delle attività di welfare sviluppate da ASU all'interno del proprio progetto di bilancio sociale. Tra le iniziative, una conferenza pubblica dedicata ai temi delle truffe, della sicurezza, della difesa personale. Sarà un momento divulgativo aperto a tutti, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità su rischi, prevenzione e comportamenti adeguati nei contesti quotidiani. L'ingresso è gratuito, con prenotazione online obbligatoria, a Udine, al Pala Prextra di Via Lodi, alle 15. Il direttore generale di ASU, Nicola Benedetto, ci ha illustrato il progetto. Sicurezza e autodifesa viene rivolto principalmente ai tesserati, ma anche a tutta la cittadinanza, ed è un programma di diffusione e di informazione su quelle che sono le tematiche importanti relative alla capacità di difendersi di fronte a non solo potenziali aggressioni o situazioni di pericolo, ma anche eventualmente truffe che possono accadere agli anziani. Si inserisce in un contesto molto ampio di tutela della persona che ASU, insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, qual è l'amministrazione regionale, e a uno sponsor privato che è MD System SPA, ha deciso di mettere in campo a favore dei tesserati, ma di tutta la cittadinanza che desidera partecipare. Oggi si sviluppa una delle parti di questo progetto con una conferenza pubblica. Di cosa si parlerà? Sì, oggi sarà, diciamo, un incontro per spiegare qual è l'importanza di seguire questi corsi, di apprendere le nozioni base sulla gestione della sicurezza in momenti di emergenza, di sicurezza, come si diceva, ma soprattutto di pericolo, come saper gestire perché questa è la cosa veramente importante, sapere gestire le situazioni di pericolo, e lo faremo anche incontrando esponenti delle forze dell'ordine che ci daranno delle indicazioni e soprattutto esperti di autodifesa. Allo stesso tempo citeremo anche l'importanza della videoanalisi all'interno dei luoghi pubblici in funzione della prevenzione di atti criminosi che potrebbero ledere la sicurezza di tutti i cittadini. Alcuni annunci di sport: il basket, Gesteco Cividale oggi sul parquet di casa riceve Unicusano Avellino, la partita comincia alle 20, gli Irpini schierano Giacomo Dell'Agnello, ex proprio, che proprio a Cividale, oltre a lasciare tanti ricordi alla tifoseria gialla e a scrivere un pezzo di storia della società ducale, aveva trovato l'ambiente giusto per far decollare la sua carriera. Pallanuoto: nella quarta giornata della fase a gironi di Eurocup femminile, le Orchette alla Bardate ospitano il CN Catalunya. Si gioca alla Bruno Bianchi con inizio alle 18.30. Domani mattina alle 11.05 sulla terza rete televisiva andrà in onda Est-Ovest, la rubrica della TGR dedicata all'Est e al Centro Europa. Un'anticipazione della puntata. Sì a una pace giusta, no a un'occupazione, lo chiede l'avvocata ucraina Oleksandra Matvichuk, premio Nobel per la pace. La sanità romena in crisi per la massiccia emigrazione dei giovani medici e infermieri verso i paesi dell'Europa occidentale. La nuova metropolitana Made in Italy di Salonicco sta ridisegnando il volto della mobilità nella città portuale greca. La partecipazione e il coinvolgimento nel 1989 di un gruppo di studenti italiani nella caduta del comunismo in Ungheria. Una guida dell'impero asburgico per conoscere i monumenti e i modi di vivere nei paesi che formavano lo Stato di Francesco Giuseppe. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 minuti su Rai 3. E sempre domattina, ma la radio dopo il GR delle 8.30 andrà in onda su questa frequenza Vita nei Campi, sul mondo dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani incontra una giovane imprenditrice del florovivaismo premiata a Bruxelles per il suo sistema di riciclo dell'acqua. A seguire il brut di polente, non un vero e proprio brodo, ma una specialità tipica della montagna. Miscuglie popolazioni evolutive di frumento con i MEB, continua il percorso sul grano da pane. Le birre di Natale, elevato tenore alcolico, gusto dolce e speziato, accompagnano i piatti delle feste. E ancora il battonnage, antica tecnica tradizionale di origine francese per gestire le fecce fini del vino. Dai fiumi nobili e più nascosti rii, la corona di vie d'acqua del parco naturale delle Prealpi Giulie. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni meteo e il proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. A Tolmezzo, serata sul tema Quando la natura ispira, la montagna come stile di vita, un incontro dedicato al legame fra l'uomo e l'ambiente montano. Protagonisti dell'evento: Mauro Corona, Marianna Corona e Poiana, in una serata che intreccia parole, emozioni e natura. Al centro dell'incontro i temi della natura come fonte di ispirazione, della montagna come stile di vita raccontata attraverso la scrittura e il rapporto profondo con la terra. La serata vedrà anche la partecipazione speciale appunto di Poiana, imitatore di versi di uccelli. A presentare l'incontro Raffaella Carnielutti, al Teatro Comunale Candoni alle 18.30. Con Mauro Corona abbiamo parlato del suo ultimo lavoro, Il sentiero degli aghi di pino, e del modo diverso in cui evolve in due fratelli il rapporto con la montagna. Ognuno di noi cresce con un DNA. Tu puoi seminare gli stessi insegnamenti, una persona attecchiscono in forma buona, in forma, diciamo, che aiuta il prossimo, che aiuta l'altro, invece è come una ribellione, una reazione a questi insegnamenti, nel caso del libro, di un nonno a volte anche fastidioso, rompiscatole, che fa reagire il maschio, prettamente appartiene al maschio l'idea di ribellione, di fare il bastian contrario. Quindi posso dirti che, pur avendo ricevuto gli insegnamenti, la ragazza li pone a fin di bene per guarire gli alberi, l'altro gli alberi li vuole distruggere per arricchirsi. È una questione di ricevere gli insegnamenti e metabolizzarli e poi metterli in pratica in base al nostro animo. È successo con i miei fratelli. Io ho preso una strada, gli altri completamente diversi. Non è vero che gli insegnamenti uguali danno gli stessi frutti in due fratelli o tre o quattro. Ognuno poi ha una personalità che reagisce. E sono percorsi irreversibili? Sono percorsi irreversibili quando le persone riusciranno a capire, ma ci vogliono molti errori e una certa età. Infatti lui si ravvede, ma quando? Quando ha finito quasi la vita e quando soprattutto si ricevono badilate tremende in faccia. È difficile vedersi e rimediare da giovani, perché si è convinti di essere nella ragione. Vedi me, quello che ho combinato, convinto di aver ragione. Oggi, su tutto questo mazzo di disastri che ho fatto, pochissime, forse due o tre volte ho avuto ragione. Cos'è per lei la montagna? È una garza, una farmacia, una fascia. Noi fratelli abbiamo avuto una vita infame, con abbandonati dai genitori, con un padre violento, picchiatore, ubriacone. E dove ci rifugiavamo? Nell'affetto degli animali, i cani soprattutto. Oppure scappavamo nella montagna, che si faceva da garza, da fascia, da abbraccio. La segnalazione di alcuni spettacoli arriva oggi a Udine alle 20 ed è già sold out il Barbiere di Siviglia, dramma comico capolavoro di Gioacchino Rossini, nell'applauditissimo allestimento del Teatro Lirico Verdi di Trieste. Regia, scene e costumi sono di Pierluigi Pizzi, nei ruoli principali il baritono Alessandro Luongo, Figaro, la mezzosoprano Annalisa Stroppa, Rosina, e il tenore Marco Ciaponi, il Conte d'Almaviva. Dirige solisti, orchestra e coro dell'ente lirico triestino il maestro Enrico Calesso. Il Russian Classical Ballet sarà ospite oggi ad Azzano Decimo con una versione di uno dei balletti classici più rappresentati, lo Schiaccianoci, andato in scena la prima volta il 18 dicembre 1892 a San Pietroburgo. Il Russian Classical Ballet, diretto da Eugenia Bespalova, porterà nel circuito ERT una versione fedele all'originale al Teatro Marcello Mascherini di Azzano Decimo alle 21. Ora sono le 12:56 minuti e 30 secondi, l'assistenza tecnica è stata assicurata da Giuliano Pecorari e da Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 14:30 all'orario del sabato su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Lara Zani e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.